portami via da qui, fuori da questa stanza, con le tue mani piccole e gli occhi fuori da queste mura. Portami via da qui, se sei sicura così della tua voce. Per altri fosti il centro del poema, per me eri ciò che in esso vive e che lo annuncia, il verso intero, la parola che ora mi congeda, l'intera lontananza senza luoghi ci ha diviso in corpi, una tristezza senza occhi mi ha scrutato in volto, ha visto che ho sofferto e in fondo all'acqua nera ha scagliato il sasso. Sul bocciolo chiuso, un'ape tenta, senza fine, la sua dolcezza vera. Carezzi le invetriate di archi, d'ardesia calpesti i pavimenti, in punta di piedi tocchi le scale, di corsa, la tua folata nell'ala del sonno trascina briciole in terra. Ti affacci alla cornice degli specchi, sbirci dagli angoli degli armadi, tra le grinze dei letti sfatti stacchi agli angoli sgualciti dei lenzuoli, le sagome tiepide di due corpi. Ti sporgi al brulicare delle voci, al crepitare bianco dei cristalli, elisir da bar e brindisi perenni al nulla, e così sia dell'universo. La fuga che l'unghiotte non disturba l'ora degli aperitivi, un altro sorso, un ultimo singhiozzo ininterrotto, un chiasso invade il vicolo di sotto, traffico di bicchieri vuoti e sedie, postazioni nel trambusto celeste. Portami fuori da qui, nell'aria che si muove, di tutti i tuoi capelli e con i tuoi colori. Portami via da qui, tu sei lontana per me con la tua voce. Portami via da qui, se vuoi, e vengo io, vengo con te, con la tua voce. Soffrire nella tua memoria e della tua memoria di me a pagarmi forse un ultimo giorno da uno sguardo nascosto.